Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Le avventure di Pinocchio, di Collodi. Capitolo 22esimo. Pinocchio scuopre i ladri e in ricompensa di essere stato fedele viene posto in libertà. Ed era già più di 2 ore che dormiva saporitamente quando verso la mezzanotte fu svegliato da un bisbiglio e da un pissi pissi di vocine strane che gli parve di sentire nell'aia. Messa fuori la punta del naso dalla buca del casotto, vide riunite a consiglio 4 bestiole di pelame scuro che parvero gatti, ma non erano gatti. Erano faine, animaletti carnivori ghiottosissimi, specialmente d'uova e pollastrine giovani. Una di queste faine, staccandosi dalle compagne, andò alla buca del casotto e disse sottovoce: «Buonasera, Melampo!» «Io non mi chiamo Melampo», rispose il burattino. «O dunque, chi sei?» «Io sono Pinocchio». «E che cosa fai costì?» «Faccio il cane da guardia». «O Melampo dov'è? Dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto?» «È morto questa mattina». «Morto? Povera bestia! Era tanto buono. Ma giudicandoti alla fisionomia, anche te mi sembri un cane di garbo». «Domando scusa, io non sono un cane». «O chi sei?» «Io sono un burattino». «E fai da cane di guardia?» «Purtroppo per mia punizione». «Ebbene, io ti propongo gli stessi patti che avevo col defunto Melampo e sarai contento. Noi verremo una volta alla settimana, come per il passato, a visitare di notte questo pollaio e porteremo via 8 galline. Di queste galline, 7 le mangeremo noi e una la daremo a te, a condizione, si intende bene, che tu faccia finta di dormire e non ti venga mai lestro di abbaiare e di svegliare il contadino». «E Melampo faceva proprio così?» domandò Pinocchio. «Faceva così, e fra noi e lui siamo andati sempre d'accordo. Dormi dunque tranquillamente, e stai sicuro che prima di partire di qui ti lasceremo sul casotto una gallina belle pelata per la colazione di domani. Ci siamo intesi bene?» «Anche troppo bene», rispose Pinocchio, e tentennò il capo in un certo modo minaccioso, come se avesse voluto dire: «Fra poco ci riparleremo». Quando le 4 faine si credettero sicure del fatto loro, andarono di filato al pollaio, che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane. E aperta a furia di denti e di unghioli la porticina di legno che ne chiudeva l'entratina, vi sgusciarono dentro una dopo l'altra. Ma non erano ancora finite di entrare che sentirono la porticina richiudersi con grandissima violenza. Quello che l'aveva richiusa era Pinocchio, il quale, non contento d'averla richiusa, vi posò davanti per maggior sicurezza una grossa pietra, a guisa di puntello. E poi cominciò ad abbaiare. E abbaiando proprio come se fosse un cane, faceva con la voce: «Bu, bu, bu, bu!» A quella abbaiata il contadino saltò dal letto e, preso il fucile e affacciatosi alla finestra, domandò: «Che c'è di nuovo?» «Ci sono i ladri», rispose Pinocchio. «Dove sono?» «Nel pollaio». «Ora scendo subito». E infatti, men che si dice amen, il contadino scese. Entrò di corsa nel pollaio e, dopo aver acchiappate e rinchiuse in un sacco le 4 faine, disse loro con accento di vera contentezza: «Alla fine siete cascate nelle mie mani. Potrei punirvi, ma civil non sono. Mi contenterò invece di portarvi domani all'oste del vicino paese, il quale vi spellerà e vi cucinerà a uso lepre dolce e forte. È un onore che non vi meritate, ma gli uomini generosi come me non badano a queste piccolezze». Quindi, avvicinatosi a Pinocchio, cominciò a fargli molte carezze e fra le altre cose gli domandò: «Come hai fatto a scoprire il complotto di queste 4 ladroncelle e dire che Melampo, il mio fido Melampo, non s'era mai accorto di nulla?» Il burattino, allora, avrebbe potuto raccontare quel che sapeva. Avrebbe potuto, cioè, raccontare i patti vergognosi che passavano fra il cane e le faine. Ma ricordatosi che il cane era morto, pensò subito dentro di sé: «A che serve accusare i morti? I morti sono morti e la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace». All'arrivo delle faine, sull'aia, eri sveglio o dormivi? Continuò a chiedergli il contadino. Dormivo, rispose Pinocchio, ma le faine mi hanno svegliato coi loro chiacchiericci e una è venuta fin qui al casotto per dirmi: se prometti di non abbaiare e di non svegliare il padrone, noi ti regaleremo una pollastra bella e pelata. Capite, eh? Aveva la sfacciataggine di fare a me una simile proposta, perché bisogna sapere che io sono un burattino e che avrò tutti i difetti di questo mondo, ma non avrò mai quello di stare di balla e di reggere il sacco alla gente disonesta. Bravo ragazzo, gridò il contadino battendogli su una spalla. Codesti sentimenti ti fanno onore. E per provarti la mia grande soddisfazione ti lascio libero fin d'ora di tornare a casa. E gli levò il collare da cane. Fine del 22° capitolo.